Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti all'ottavo numero di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. Il problema del futuro della TV è che è come la nazionale di calcio, ne parlano tutti, politici, futurologi, mass mediologi, starlet del piccolo schermo, esperti reali o autoproclamati, insomma tutti, nessuno escluso. E ovviamente ciascuno, per futuro della TV, non solo ha una soluzione ma intende una cosa diversa. La TV come apparato o come tecnica per la diffusione di immagini in movimento? La produzione o la distribuzione? La tecnologia o i contenuti? Sullo sfondo sopravvivono alcuni miti immarcescibili: il digitale, l'interattività, il 3D. E allora, in questo caos, visto che oggi abbiamo la fortuna di parlarne con due esperti veri, forse il primo passo da compiere è chiarire bene di che cosa non stiamo parlando. Ecco, oggi non parliamo di quello che state per sentire. C'è Gabo Di Matteo, giornalista multimediale, così, beato te. Ciao, salve. Beato te che sei multimediale, comunque grande ci esperto. Ci provo. Grande esperto di tecnologie. Allora, io non lo so, ti devo dire la verità, insomma, io sono uno di quelli ancora legati al fatto che il telefono deve telefonare, il televisore deve servire per vedere la televisione, il computer... Invece no, la tendenza è quella sempre di accorpare sempre di più, mettere tutto in uno stesso oggetto. È un bene, sai, questo, spiegacelo. È quasi, tu. Maurizio, è quasi obbligatorio, è come, siccome la televisione è un animale intelligente, si sta trasformando, come è successo nel regno animale, ai pinguini e alle giraffe. Per non essere divorato da internet, sta cambiando atteggiamento. L'iPod, questo sì, tablet che ormai tutti conoscono, collega alla televisione negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti la ABC ha fatto questo esperimento per cui tu da casa puoi intervenire sulla storia. C'è questo serial che si chiama My Generation, tu puoi dire ma i due hanno fatto male a divorziare, oppure puoi rispondere a dei sondaggi. Questa quindi non sei più passivo sul divano, ma puoi intervenire nella storia. È la famosa interattività, insomma, no? Esatto. Allora, abbiamo iniziato con un'altra delle nostre fulminanti provocazioni. Vi abbiamo fatto sentire le tante cose di cui spesso si parla quando si parla del futuro della televisione. Oggi abbiamo la fortuna di avere in studio due persone che parlano a ragion veduta, due esperti, due pionieri della web TV, come intanto Tommaso Tessarolo, che saluto. Buongiorno a tutti e grazie Antonio. E alla mia sinistra Andrea Cilento, che... ci ha raggiunto qui in studio. Andrea è anche lui un pioniere della web TV, fondatore di MediaWay e fa anche tante altre cose, giusto? Giusto, buongiorno a tutti. Sì, ho una responsabilità da 2 anni circa all'interno del gruppo Ericsson per lo sviluppo, il business development della web TV, e poi sono stato il fondatore forse della prima web TV italiana, Your Television, nel 2000. Mentre Tommaso, non lo abbiamo detto, è direttore di Current TV Italia, fresco vincitore nella categoria News degli Hot Bird Awards, corretto? Corretto, appena presi, ritirato a Venezia con grande soddisfazione quasi una settimana fa. Ex aequo con la BBC, e questo dal giusto peso a questo riconoscimento. Avremmo voluto vincere da soli, però ci siamo, diciamo, sacrificati. Però l'avete detto, no, non è la BBC quando avete ritirato. Esatto. E tra l'altro anche autore, ormai, credo 4 anni fa, di questo libro che fece molto rumore all'epoca, nel 2006-2007, Net TV, che cominciava a dire un po' di cose molto molto interessanti, edito da Apogeo, tuttora credo un libro piuttosto attuale, ed è abbastanza raro che qualcosa che viene stampato su carta su queste cose sia ancora valido. Allora, io ho voluto fare questa puntata un po' per proseguire questo ciclo di come il web soprattutto cambia i media tradizionali, come i media tradizionali sono costretti ad adeguarsi. La scorsa settimana era un convegno dell'ANFOV, che tiene un osservatorio sulla televisione del futuro. Insomma, invece che ascoltare una serie di visioni del futuro, mi è sembrata un po' una kermesse dei rispettivi orticelli. Cioè, gli operatori della TV tradizionalista dicono che la TV lineare non morirà mai, che quindi bisogna al massimo rendere interattiva la cara vecchia televisione. I costruttori di elettronica di consumo parlano di user experience e di case connesse, magari per riempirci sempre nuovi televisori, scatolette, eccetera. Gli operatori di telecomunicazione dicono che senza di loro la TV via internet non si può fare. Ma insomma, è difficile in questi convegni fare emergere una vera visione strategica, o meglio, la visione strategica di un nuovo ecosistema che assegni ad ogni soggetto un ruolo ragionevole. Tommaso. Beh, è difficile come è sempre stato difficile. Purtroppo sappiamo che 9 convegni su 10, adesso per essere buoni, ti portano a casa il nulla, insomma non riesci a capire nulla di più che quello che già sapevi fondamentalmente. Sui temi specifici che tu hai citato, credo che ognuno nel suo abbia detto la verità. Ecco, questo ci conforta. Perché poi il problema è che ancora ogni singolo settore ha la sua visione, ha il suo modello di business, ha le sue ragioni per continuare a fare quello che sta facendo. Non si è creato ancora, almeno in Italia, ma anche negli Stati Uniti, insomma, stiamo appena vedendo oggi qualche segnale importante, ma non si è creato nulla che possa vedere uno sfondamento di un settore verso l'altro. Ho capito. Andrea. Eh sì, in parte Tommaso ha già fatto cenno a qual è il centro del problema. Cioè, si parla da tantissimi anni di convergenza, però è rimasta quasi una parola, nel senso che ancora oggi esistono gli abilitatori, i produttori di tecnologia che insistono a voler produrre solo tecnologia, quindi quasi temendo una defocalizzazione, non hanno capito che produrre tecnologia per i media in questo momento significa capire i media prima ancora che capire la tecnologia, probabilmente. Viceversa, dall'altra parte abbiamo i tradizionali offering, le tradizionali offering di contenuti e di canali, che però persistono, diciamo, in un modello tradizionale e sostanzialmente non hanno capito internet, quindi lo utilizzano in maniera così scolastica, elementare, ma insomma non lo hanno fatto proprio nelle attività quotidiane, nella concezione della loro offerta. Allora, provando a mettere ordine e partendo alla fine dal televisore di casa, che è ancora, no, il re dell'esperienza domestica di fruizione di contenuti multimediali, la partita sembra giocarsi lì, quantomeno i principali player cercano di dire cosa ci facciamo con questo televisore, ora che con un set-top box oppure con un televisore connesso autonomamente a internet, praticamente la TV viene investita da una marea di contenuti nuovi e a pagamento, gratis o a pagamento. Da un lato ci sono questi fornitori di video online tradizionali, cioè quelli che abbiamo sempre fruito sul desktop, no? Primo fra tutti, proprio YouTube, che hanno il problema di come renderli appetibili sullo schermo del salotto. Dall'altro, i broadcaster cercano anche loro di andare incontro alle nuove abitudini dei telespettatori, che non vogliono più semplicemente fare zapping, vedere cosa passa il convento, anche se i conventi si sono moltiplicati a dismisura. Quali sono le sfide degli uni e degli altri? Ma la sfida, secondo me, a mio modo di vedere, più importante per i primi soggetti che tu hai citato. Cioè i broadcaster, diciamo. I primi no, sono gli operatori di rete. Parto da lì. Cioè quelli che hanno incominciato a operare online, che hanno provato e stanno provando a fare qualcosa di nuovo online, è evidentemente nel contenuto. Cioè se tu online cerchi di rifare quello che si vede abitualmente in televisione, stai commettendo un errore clamoroso, perché evidentemente c'è qualcun altro che lo sa fare da più tempo di te, con più esperienza di te e probabilmente con molti più soldi di quelli che tu hai a disposizione. Quindi secondo me la vera domanda è: quelli che hanno vissuto, che sono nati all'interno di un contesto completamente digitale, che sono immersi in questa nuova sostanza, che quindi hanno anche la percezione vera di quello che è il pubblico, il nuovo pubblico online, come possono fare nuovi contenuti che non siano contenuti che scimmiottano i contenuti televisivi? I broadcaster, dopo essere stati narcotizzati per anni, almeno in Italia, perché poi insomma in altri paesi sono riusciti a reagire molto prima, hanno capito che le abitudini di visione della gente sono cambiate. hanno capito quindi che è importante dare la possibilità a chiunque di vedere e rivedere quello che vuole, dove vuole, quando vuole, e hanno capito anche quanto sia importante poi confrontarsi con il pubblico, perché fondamentalmente quando uno fa televisione la prima cosa che vede quando si sveglia la mattina sono i dati di ascolto, e li vede soprattutto per chi fa televisione a grandi livelli, seguendo le curve minuto per minuto, per cui capendo se quel momento nella narrazione di una trasmissione, di un contenuto, è stato, no, più apprezzato o meno dal pubblico, se ha costituito un elemento di favore per la trasmissione o meno. Ecco, online questa cosa viene amplificata all'ennesima potenza, diciamo che è un flusso continuo di interazione con il pubblico che può portare a fare vera comunicazione per intrattenimento. Tu hai detto una cosa molto importante, non hanno soldi i nuovi operatori, no? Che vengono dalla rete, mentre il broadcaster ha i soldi da reinvestire nella sua metamorfosi. Andrea? È un bel tema questo qui. Il broadcaster ha i soldi, però diciamo non ha la cultura, nel senso che diciamo prima chiedevi qual è la sfida, insomma la sfida secondo me sia per gli operatori di rete che per i broadcaster in un certo senso è la stessa, e bisogna vedere se tra i due c'è qualcuno che arriva prima o se entrambi verranno bruciati da terzi incomodi, perché il discorso qui è creare una esperienza televisiva a 360 gradi, quindi con un merge di tecnologie e contenuti che sia innovativo in maniera sostanziale. Cioè noi ancora oggi parliamo di TV interattiva, abbiamo sentito quel delizioso brano che hai trasmesso all'inizio, come se l'interazione per la televisione fosse semplicemente la pausa o il rewind all'interno di un programma, fosse la replay TV, fossero attività diciamo che intervengono unicamente dopo che il contenuto è stato prodotto, quindi non incidono in come viene prodotto il contenuto né nel modello di business, ma semplicemente diciamo sono delle facilities che vengono aggiunte lasciando intatto lo scenario televisivo in termini sostanziali. Invece il problema è chi per primo riesce a sviluppare un'offerta credibile di servizio e di contenuto innovativo, dove non riconosceremo più quale tecnologia e quale contenuto, ma le due cose diciamo si influenzano l'una con l'altra, come peraltro già avviene oggi con la televisione lineare. Cioè oggi noi talmente questa cosa è avvenuta che ci dimentichiamo quanta tecnologia c'è comunque nella televisione tradizionale, che è l'elemento, sono perfettamente d'accordo, l'elemento fondamentale di ogni tecnologia quando arriva al suo stadio di maturazione, cioè scompare e crea diciamo un suo stile. Cioè quello che è capitato quando è nata la televisione a colori non è semplicemente diciamo che i programmi che c'erano in bianco e nero sono stati colorati, è cambiato lo stile radicalmente. Quando è nata la televisione rispetto al cinema, all'inizio la televisione somigliava molto al cinema, ma poi ha cambiato il linguaggio. Nuovi linguaggi, certo. Ecco, secondo Luca De Biase, questo giornalista del Sole 24 Ore, che insomma spesso ci azzecca, una volta che diventano digitali, come sull'iPad, i giornali diventano applicazioni. Allora io vorrei chiedere intanto a Tommaso, anche le televisioni diventano applicazioni, cioè ogni costruttore ormai ha il suo application store, no? La Apple, le TV connesse, che so, Samsung, LG o Sony, le console di videogiochi. Ora, da un lato questi application store permettono a chi fornisce contenuti di far entrare l'utente in un mondo che ha il loro brand, no? E dall'altro però è anche questo l'ennesimo tentativo di ritagliare un pezzo della rete per assecondare le esigenze dell'utente, d'accordo, ma anche per nascondere l'infinita ricchezza di contenuti, anche gratuiti, che sono presenti altrove. Insomma, anche questo è un esempio lampante di quelle splinternet di cui abbiamo parlato nel primo episodio di Conversation. Ma sai, credo che ci siano degli esempi interessantissimi di applicazioni collegate al mondo della televisione, quella che ormai viene comunemente definita la social TV, che tu vedi su iPhone, iPad, e qui ci fermiamo al mondo Apple, ma insomma ne potremmo trovare altre o le stesse ovunque, per cui riesci a creare un contesto all'interno di un'applicazione che permette agli utenti di condividere l'esperienza mentre vedono il flusso della programmazione. Non è, sembrerebbe una cosa banale, ma non lo è, è un'esperienza unica che sta realmente cambiando il modo di concepire la visione di un contenuto televisivo, e che in alcuni casi potrà e potrebbe cambiare il modo di fare anche televisione nel momento in cui le tecnologie ce lo renderanno possibile. E vi chiedo, anzi, facciamo così, lanciamo un altro inserto. Se si rinunciasse a ritagliare, cioè se si facesse un application store completamente aperto in cui ogni sviluppatore può liberamente creare e pubblicare un'applicazione che gestisce qualsiasi contenuto multimediale presente su internet, cioè un application store che non prova a ritagliare un bel niente. Ci hanno provato i creatori di Boxy, che sentiamo adesso. Today I'm here at Boxy's new offices, and this is Avner Ronan, who is the founder of Boxy. Boxy is an application or a program that you can take online video content or content that you already have and stream it to your television. So how did you get the idea for the whole concept of Boxy? We were using more and more the internet as our main place where we would get shows and music and photos, and we wanted to do it on our TV screen, and it was just not a great product for doing that, so we decided to build one. Now there's about 850,000 users of Boxy, most of them in the US. We want to bring more content into Boxy, and we want to make it easier for developers and content owners to put their stuff on Boxy and monetize it. How does that work exactly? People pay for shows. I think in some cases people pay for channels. Definitely for movies, but I think there's also a great opportunity for independent content owners that are making either web shows or independent films, that up till now it's been very hard for them to get distribution and also monetize. So what do you think will be the industry standard in the next couple of years as far as web TV goes? I don't think there's going to be one codec to rule them all, and that's not the issue that is holding the industry back right now. Other issues are holding it back. Less than 10% of cable. Allora, questo era Avner Ronan, fondatore di Boxy, questa scatola magica. All'inizio era solo un software, poi adesso c'è anche il box che si può trovare nei supermercati e che fa tutto da solo. Si attacca alla televisione, si attacca a internet e ti arriva qualsiasi cosa. Non ci sono più mondi chiusi, tentativi di riconfezionare, non ci sono mediatori. È questa la TV del futuro, Andrea? Allora, questo si riconnette con quello che accennavo prima, cioè la possibilità che esistano delle terze parti che non sono né operatori di telecomunicazioni né broadcaster, che entrano e sono più rapidi e forse più brillanti di queste due categorie, che sono tipicamente grandi aziende, quindi molto lente nel cambiare il proprio vestito culturale. Il problema è che la competizione, a mio avviso, si sposterà sempre di più dal problema, diciamo, tecnologico e dell'accesso verso la sostanza del servizio che offri. Cioè sostanzialmente noi avremo uno scenario in cui broadcaster, operatori di telecomunicazioni e terze parti come Boxy offriranno sostanzialmente lo stesso, cioè offriranno un accesso sempre più aperto ai contenuti che ci sono sul web. Quindi questo non sarà più un elemento di vantaggio competitivo in termini di modello commerciale. La competizione si sposta decisamente verso la capacità di costruire delle audience, di presidiarle, di conservarle nel tempo, in uno scenario di competizione vera, al netto di provvedimenti legislativi che, diciamo, in queste ore vengono più o meno, come dire, incombono sulla testa, diciamo, di quelli che vogliono fare questo mestiere. Però, diciamo, il tema è davvero una competizione. Io anche se devo interromperti, sì, proprio oggi è stato un po' ridimensionato il discorso dei decreti attuativi che imponevano la dichiarazione d'inizio di attività a qualsiasi web TV, no, e web radio. Questa era una cosa talmente anacronistica. In realtà cambia ogni giorno, cioè quando vedremo il testo definitivo ne potremo parlare, ma quello però, che si sa, l'impostazione che era stata data è qualcosa di davvero anacronistico, cioè qualcosa che pensa di poter dominare internet, insomma, significa veramente pensare di fermare l'aria o di fermare il mare, insomma. Però ecco, voglio dire una cosa molto veloce che attinente a Boxy, che io per anni, diciamo, mi sono sforzato di costruire una soluzione che spostasse i contenuti dal web alla televisione. Comincio ad avere dei dubbi che sia questa la strada. Può darsi che invece la cultura di consumo di massa sarà desktop based, o perlomeno laptop based, iPad based e così via. Insomma, la televisione naturalmente sopravvive, ma diciamo probabilmente rimarrà il momento di televisione passiva o comunque un po' meno interattiva del resto. È probabile che gli stili di consumo e di vita che ci tengono sempre più vicini agli smartphone, ai tablet, PC e così via, ci portino a essere dei consumatori di televisione più sul PC che sullo schermo tradizionale. Però è un'ipotesi di lavoro, insomma. Antonio, se mi permetti, volevo adesso sembrerà accademia, ma come dire, ci tengo particolarmente a fare questa distinzione perché secondo me è fondamentale, senza nulla togliere, per carità, perché sono perfettamente d'accordo, anzi vado a rafforzare quello che si è appena detto. Secondo me dovremmo fare una distinzione e capire bene, quando ragioniamo su questi temi, cosa significa televisione e cosa significa televisore. Certo. Perché secondo me stiamo parlando 9 volte su 10, se non 10 su 10, di televisore e di quasi monitor, mai di monitor, di interfaccia, diciamo. Tant'è, cioè, che appunto Andrea parlava di iPad, iPod, iPhone e tutto quello che c'ha lì davanti e quello che non c'ha. E il televisore è un oggetto che ci permette come interfaccia di vedere dei contenuti audio-video seduti sul divano di casa dove ci pare a noi. Tutto il resto che abbiamo citato ci permette di farlo generalmente in mobilità. Quella è un'interfaccia. La televisione è un'altra cosa. La televisione è fatta di contenuti che hanno un loro come dire, un codice molto preciso, è fatta di palinsesto. E quindi questa storia della morte dei palinsesti, Tommaso? La morte dei palinsesti si sta avverando effettivamente, anche se poi vediamo che ci sono fortunatamente eventi televisivi che sono ormai sempre di più trainati dal web, da tutto quello. E questo, no, la social television, questa liberazione vera che sta avvenendo in questo tempo. Non stiamo vedendo nuovi contenuti, nuove formule, niente. Stiamo vedendo il moltiplicarsi delle interfacce, il dare la possibilità alla gente di vedere i contenuti time shift dove vogliono loro. Stiamo vedendo però la gente creare, commentare eventi televisivi che poi si manifestano sempre comunque su un'interfaccia che li vede tutti presenti nello stesso momento o in differita, ma generalmente nello stesso momento a seguire quell'evento. Ho capito. Diciamo che molto spesso mi viene rimproverata questo estremismo, no, nel dire che c'è un nuovo ecosistema di contenuti che si sostituisce al vecchio. Io non ho mai detto questo. Io dico che pian piano però sottrae eyeballs, sottrae attenzione, e quindi la sensazione che, per esempio, le fonti di ricavo tradizionali della televisione, no, gli investimenti pubblicitari, per esempio, continuano a dire tout va bien madame la marquise, tutto va bene, eccetera. Ogni anno si autocelebrano e dicono la pubblicità quest'anno regge, tiene, eccetera. Ma la verità è che sempre una generazione crescente di persone magari tiene anche la TV accesa di sottofondo, ma la commenta su MSN oppure fa tante altre cose, e il valore del contatto, no, con lo spot pubblicitario sta cambiando. Allora io ti chiedo, se il nuovo ecosistema in qualche modo ruba attenzione, nel nuovo ecosistema i soldi che vanno a sostituire i soldi della pubblicità ci sono, non ci sono, e se ci sono, dove? Ma il dato che tu stai citando è oggettivo, cioè che il mercato pubblicitario televisivo stia scendendo inesorabilmente è un fatto, anche se poi come dire, i grandi player stanno cercando di recuperare, lo stanno di fatto facendo con gli ascolti online e con gli ascolti legati ai nuovi canali possibili grazie ad esempio al digitale terrestre o al satellite. Però è un fatto che ormai i progetti più importanti, ti faccio il caso nostro, il caso di Current TV, i progetti più importanti sono progetti cosiddetti speciali, cioè i progetti dove tu vendi all'investitore pubblicitario un pacchetto, dove sicuramente c'hai il programma televisivo, lo spot tradizionale, ma soprattutto hai un modo di coinvolgere, un meccanismo per coinvolgere il potenziale acquirente, persona interessata, attraverso un complesso meccanismo che va, parte dall'online e arriva anche, perché fortunatamente continuiamo ad averlo, anche nella vita reale, cioè nei luoghi fisici e negli eventi che tu puoi organizzare. L'online evidentemente è una parte predominante, per cui la compensazione si sta avendo nel mercato pubblicitario più reattivo nella costruzione di offerte che comprendano più elementi. Ma sulla mia risposta passami la battuta, fino a un certo punto pesa il fatto che, stando in prima linea, non si può dire proprio tutto di quello che stiamo facendo, perché altrimenti tanti NDA, tanti accordi, tanta protezione delle informazioni non servirebbe a nulla. Vabbè, ma è anche per questo che ti amo qua. Poi tu mi puoi dire quello che ritieni opportuno. No, però indubbiamente, diciamo, è in essere anche nel modello, anzi non anche, diciamo, il tema di fondo in questo momento è il modello di business, cioè è quasi tutto lì. Ma cioè è così polarizzato che è o pubblicità oppure pay, o ci stanno un sacco di belle cose nuove in mezzo? Perché io ho un po' il sospetto che qualcosa in mezzo ci sia nel nuovo ecosistema. Ci sono molte gradazioni intermedie, e soprattutto ciascuno di questi due modelli sarà probabilmente di successo quando verrà declinato in una maniera diversa. Cioè, oggi ancora la pubblicità online, almeno fatta dai broadcaster, è identica a quella che vediamo nella televisione tradizionale: pre-roll, post-roll, sovraimpressione, il massimo dell'interazione, che c'è un link al sito dell'inserzionista, quindi eccolo lì. Anche qua, ripeto, quello che deve succedere è che le nuove tecnologie devono scavare così tanto nella cultura di coloro che investono, di coloro che vendono lo spazio, da concepire una nuova esperienza pubblicitaria da offrire all'utente. Dobbiamo passare dalla fissazione che, se non parlo a una massa di persone tutte insieme, non è pubblicità, a la capacità di sviluppare una relazione con una comunità di utenti per la marca, che è il tema di fondo, insomma. E a proposito di business basati ancora sulla pubblicità, sentiamo quest'altro inserto che introduce un altro tema, un altro new kid on the block: Google TV. Back when there were only a few networks, watching TV was pretty simple. You turn on the TV, and if you didn't like what was playing, you change the channel. But these days, TV can be pretty complicated. Figuring out what you want to watch is hard enough, and that's only the beginning. Once you've chosen a program, you have to figure out when it's playing and which of hundreds of channels it's on. It's like you have to change your schedule to fit your TV schedule. In fact, many of us end up watching videos on the web because it's easier to find the things you want. I mean, think about it. More and more of our favorite shows and videos are showing up online these days, and you can get to them really easily, whenever you want, just by typing in what you're looking for. The problem is, these smaller screens don't compare to our home entertainment systems. Which leads us to a pretty big question. If the web is so smart, and our TVs are so fun to watch, why do we have to choose? Why can't they work together? Well, now they can. Introducing Google TV. Google TV brings everything that you love about the web to your television. Some new TVs will come with it built in, or you can get a separate box for the TV that you already own. Either way, the way it works is very simple. Right on your TV screen, you simply type in what you're looking for, anything that you're looking for, and Google TV will find it. It's basically an entertainment hub that searches all your channels, recorded shows, YouTube, and other websites. If you find something you like, you can add it to your home screen, where you'll always see your favorite channels, shows, websites, even music playlists and photo albums. That way, you can get to things really quick. And with a full web browser, you get unlimited access to the entire internet. So you can do stuff like browse photos or update your status. And that's just scratching the surface. By opening up your TV to all the improvements and innovation that the web has to offer, Google TV will make your TV smarter and easier to use. So you'll be able to spend a lot less time finding what you want, and a lot more time watching what you want. Allora, vedevo Tommaso scuotere la testa, anche a me non ha convinto molto questa partenza di Google TV, che è stata tra l'altro stroncata anche dal New York Times in un pungente articolo che magari linkeremo sul blog di Conversational. Perché, Tommaso? Ma guarda, adesso non so quanti, immagino tanti ascoltatori abbiano capito per filo e per segno quello che è stato detto in questo spot, di fatto, per cui venivano, no, magnificate le lodi della Google TV, per cui tu in televisione non trovi quello che vuoi, per cui con Google TV puoi cercare, trovi quello che vuoi, poi lo aggiungi, poi va sul tuo home screen, poi lo trovi lì. Pensa che io, quando devo vedere Current, accendo il televisore, faccio 130 e la vedo. E questa è proprio la prima osservazione. In qualche modo anche questi nuovissimi OTT, a cui perdoniamo tentativi, fallimenti, perché insomma ragionano come dei venture capitalists, possono fallire Buzz, possono fallire Wave, possono fallire Latitude, va tutto bene perché spendono poco, però una cosa come la TV francamente ci aspettavamo qualcosa di più. Invece mostrano di avere un'eredità anche loro, l'eredità degli smanettoni, e infatti pretendono che la gente ogni 2 secondi con una tastiera alfanumerica faccia una ricerca su una barra, che non è esattamente quell'esperienza rilassata, lean back, che ci aspettiamo su quello che viene chiamato lo schermo del salotto, non a caso, perché uno sta svaccato sul divano, corretto Andrea? Sì, i ragazzi di Google sono quello che hai appena detto, cioè sono degli grandi appassionati di tecnologia, sono troppo competenti di tecnologia, e nella mia classificazione che ho detto, diciamo, nel primo blocco della nostra chiacchierata, pendono eccessivamente dalla parte, diciamo, della tecnica, dell'elemento tecnocentrico. Cioè, il problema della nuova TV, volete che sia trovare il programma, insomma, ecco, l'ha già detto Tommaso, cioè, non è che oggi tutti lamentiamo che in televisione non troviamo il canale che volevamo, il problema è che non troviamo il contenuto, cioè, perché non esiste, perché non è stato ancora fatto, quindi diciamo non hanno capito, perché non hanno una vision convergente, non hanno competenze sufficientemente mesh up tra media e tecnologia da capire quanto le loro competenze tecnologiche devono incidere sul modello editoriale, sul modello di business. Loro mantengono lo status quo, quindi dicono i contenuti li faranno sempre solo le major, sono strutturati come li conosciamo oggi, ci sono i film, i TV show, ci sono i produttori indipendenti, noi ci limitiamo a farvi organizzare meglio, in maniera più rapida, questo tipo di cose. Non è questo, a mio avviso, una proposta di valore che consentirà, diciamo, di imporsi nel mercato. Poi, per carità, scusami Antonio, non farò mai più una festa, permettimi di alleggerire il tema, senza avere il computer collegato a internet, collegato alle casse dello stereo per suonare quello che YouTube ci dà. Cioè è tutt'altro tipo di esperienza, capisci? Quando sei lì e cerchi e ricerchi e vai e trovi qualsiasi cosa vuoi, perché a quel punto parti con un flusso di ricordi, pensieri, emozioni che nella coscienza collettiva che ormai si è creata in rete, soprattutto grazie a certi progetti fondamentali, perché Google non ne sta più praticamente azzeccando uno, ma all'inizio ne ha azzeccati e comprati di importanti, parliamoci chiaro, hanno cambiato completamente il nostro modo di vivere. Ecco, in tutti questi primi modelli che vediamo, questi tentativi, mi sembra però sempre e comunque che la fonte di finanziamento, anzi la fonte di sussidio, dicono gli economisti, perché è diverso, insomma, dove si materializzano i soldi è sempre ancora abbastanza lontano da chi crea il contenuto, o da addirittura un passo indietro, l'owner del contenuto, no? Quando ogni tanto provo a spiegare queste cose ai ragazzi dell'università, io provo a dire: guardate che magari quando finisce questa fase di transizione in cui tutti si faranno male, sarà abbastanza fatale che, essendo la distribuzione più alla portata di tanti soggetti, a cominciare dai creatori di contenuti, allora a quel punto che potrebbe succedere? Potrebbe succedere che la capacità del tradizionale broadcaster verticalmente integrato, che trasmette, produce, distribuisce, eccetera, di dire vabbè, questi sono i vincoli, queste sono le regole, dovete rispettare questo, a cominciare dalla vecchia regola del palinsesto, no? Forse non avrà più tutta questa importanza, e magari chi fin dall'inizio mette i soldi per foraggiare l'autore, per foraggiare, che so, il cantante, l'orchestra, l'autore cinematografico, dice vabbè, adesso noi allarghiamo il range dei servizi, e oltre a, che so, organizzare il Festival di Avignone, no, il curatore, che so, lo sponsor del Festival di Avignone, dice ci metto quel 10% in più e lo trasmetto in diretta, come succede già ora, per esempio, su siti come Arte Live Web, che forse conoscete, oppure addirittura ci sono delle fondazioni, no? Come la Filarmonica di Berlino, che vende la diretta dei loro concerti sul sito, non vanno più a trattare i diritti come succedeva prima con le tante televisioni culturali che ci sono in Germania. Non è, non c'è, è un mio sogno tutto questo, o potrebbe anche in misura marginale, magari rispetto ai grandi business, diventare realtà? Ma secondo me, come tu hai già detto, sta già diventando realtà. Poi bisogna considerare naturalmente caso per caso, evento per evento, prodotto per prodotto, perché ci sono dei prodotti che comunque hanno la necessità di seguire un certo iter. In generale, quello che ti posso testimoniare è che il mercato degli investitori in Italia relativamente al prodotto audiovisivo è un mercato che è ancora profondamente radicato su quelli che sono i vecchi sistemi di valutazione, che sono basati sui numeri, dove i numeri sono basati su campionamento statistico, dove il campionamento sì, anche se i numeri non sono soddisfacenti, se li aggiustano tra di loro con numeri potremmo fare un'altra puntata se vuoi con grande capacità, Andrea. Assolutamente. Beh, è un tema molto interessante e credo che noi, come per il mio lavoro che ho svolto in Ericsson, stiamo facendo qualcosa di molto vicino a questo e con qualche successo, nel senso che noi abbiamo venduto più di un progetto Web TV come strumento di comunicazione. Siamo andati nel budget, diciamo, di comunicazione del cliente, costruendo, faccio l'esempio di una Web TV che lanceremo a breve per un cliente che vende energia, dove non abbiamo fatto spot, non abbiamo fatto link, banner, tutte queste robe qua non servono più a niente. Abbiamo fatto una Web TV che parla di energie rinnovabili, che si chiamerà cheenergia.tv, e abbiamo fatto un contenitore puramente editoriale al servizio di un cliente che non viene neanche nominato all'interno del contenitore, perché l'obiettivo è attrarre il pubblico non con un commercial ma con idee e contenuti. Quando io attraggo il pubblico con idee e contenuti, costruisco una comunità al servizio del mio cliente, faccio un vero servizio in questo senso qua. Però devo aggiungere che il problema dell'innovazione non è sempre soltanto concepirla, è soprattutto attuarla, e chi spende in pubblicità è ancora, diciamo, con un coraggio minimo, per cui preferisce sbagliare su un grande broadcaster piuttosto che osare fare una cosa nuova da questo punto di vista. E soprattutto non c'è orizzonte, che è un problema anche, diciamo, più ampio. Non voglio buttarla né in politica né in ragionamenti cosmici, però, diciamo, come sistema paese noi dobbiamo riprendere la capacità di guardare un po' più in là e di ricordarci che, insomma, il vino non si fa in 6 mesi, ecco, il buon vino si fa con un po' più di pazienza. E se qualche volta chi investe in pubblicità capisse che può creare un valore che magari dura 30 anni mettendocene 2 o 3, ecco, forse, diciamo, riusciremo a costruire dei modelli nuovi, delle cose più interessanti, tra l'altro spendendo di meno per chi spende i quattrini della pubblicità, quindi non vedo perché no, insomma. Va bene, allora siamo in chiusura. Io ringrazio i due ospiti che ci hanno raggiunto. Devo però ricordare quantomeno il blog di Tommaso Tessarolo, che ancora esiste, anche se l'ha un po' trascurato negli ultimi anni, perché parecchio, sì. aveva qualcos'altro da fare. Sì. L'indirizzo te lo ricordi, Tommaso? Tommaso.tessarolo.it. Grazie, va bene. Antonio. Va bene. Noi, prima di congedarci, ricordiamo che tutte le puntate sono scaricabili le puntate di Conversational naturalmente sono scaricabili in podcasting dal sito www.conversational.it, dove c'è anche il blog, si può proseguire la discussione anche dopo la puntata. E un'altra cosa che vorrei dire è che su iTunes continua ad apparire e scomparire il podcast, quindi forse la cosa migliore per il momento è continuare a sentirlo sui piccoli player flash che stanno sul sito. Io ringrazio ancora sia Tommaso Tessarolo che Andrea Cilento e vi do appuntamento alla prossima settimana.